Italia in controluce. Benvenuti dunque alla prima puntata di Italia in controluce di quest'anno, 8 gennaio. In studio vi parla Daniele Biacchesi. Come sempre la formula non cambia, sono i fatti, il fatto anzi principale per noi oggi. Il fatto è una storia strana, una storia di un piccolo aereo partito dalle isole Los Roques, un paradiso straordinario in Venezuela, e purtroppo mai giunto a destinazione. In un stato di cielo di mare tra i più tranquilli al mondo, almeno dal punto di vista, si dice, meteorologico. Già il 4 gennaio del 2008 era accaduto un caso analogo. Gli 8 italiani a bordo allora di un altro piccolo velivolo erano spariti nel nulla, eclissati, volatilizzati. Dopo 5 anni non se ne sa a praticamente nulla, si è parlato di narcotraffico. E ancora un altro caso si era verificato nel 1997, quando non si ebbero più notizie di un Cessna con a bordo altri 2 italiani. Per questa ultima sparizione si parla di un fulmine che avrebbe colpito l'aereo, oppure di un problema all'ala che un filmato della RAI Lombardia avrebbe evidenziato sull'aereo in fase di decollo. E allora vi chiediamo che vi siete fatti di questa vicenda, se questo luogo, questo paradiso, Los Roques, è sicuro secondo voi a questo punto per i viaggiatori, e se l'Italia deve chiedere, cosa che non ha ancora mai fatto né per nessuno di questi casi che vi ho raccontato, al governo venezuelano sulla sicurezza in quella tratta, anche sulla sicurezza degli aerei. Io sono stato 2 volte alle Los Roques e quindi conosco molto bene quella tratta, dicevo, molto molto bella, bellissima, e devo dire che nell'aeroporto di Caracas, aeroporto internazionale, già notavo nel 1995 che era come se ci fossero 3 luoghi e quindi anche 3 diversi livelli di sicurezza. Il primo, quello internazionale, che è quindi uno standard appunto internazionale. Il secondo, quello nazionale, con uno standard forse un pelino meno accorto, e poi una sorta di terza parte che era piena, stracolma anzi, di piccolissimi aerei, anche da trasporto per 4-5 più pilota e copilota, che almeno io su quelle tratte ho avuto paura, e poi sentiremo anche altri testimoni. E naturalmente, se ce ne sono, possono scrivere al 349-238-6666 se qualcuno di voi ha fatto e ha compiuto nel corso degli ultimi anni quella tratta tra Los Roques e Caracas. Quindi chiedevi, siete fatti, se questo luogo è sicuro e se l'Italia deve chiedere contro il governo venezuelano della sicurezza di quella tratta. Dell'ipotesi di un fulmine parlano anche i piloti che operano nell'arcipelago venezuelano, come l'italiano Pier Giorgio Serloni, che è stato intervistato da Raffaella Calanda. L'aereo è entrato dentro una turbolenza dovuta a un cumulo, si sono perse tutte le tracce radio e il pilota non ha nemmeno avuto tempo di dichiarare un'emergenza. Lei ha parlato con il pilota che era esattamente dietro di loro. Che cosa le ha raccontato? Quando ha sentito che la torre di controllo lo chiamava, ha invertito la rotta, si è messo a cercare, è stato più di mezz'ora cercando la bassa quota. Immediatamente, stando a un minuto di distanza dall'aereo, ha chiamato l'aereo sulla stessa frequenza e non hanno ottenuto risposta. Nel caso che sia stato un fulmine a colpire l'aereo e a bruciare tutte le radio, il fulmine brucia anche il cervello del pilota e del copilota, l'aereo, se è stabilizzato, continua a volare, non è che cade lì. Per quello forse non si spiega che non si siano trovati ancora dei resti. Quando l'aereo cade in mare non è mai stato recuperato, a meno che non sia proprio vicino alla spiaggia. Gli aerei che volano sulle rocche sono aerei leggeri. Questo aereo scomparso era un aereo in buone condizioni? Assolutamente sì, io ero salito su quell'aereo personalmente e aveva tutta una strumentazione digitale molto avanzata. Questa linea aerea, che era la proprietaria dell'aereo, si chiama Transaero, ha ottenuto la patente per operare solamente da poche settimane. Un nostro ascoltatore che ha fatto il 349-238-6666 ci scrive di essere stato anche lui sulla tratta di volo tra Los Roques e Caracas, e dice: ci sono stato con quegli aerei è un rischio ormai siamo tutti consapevoli. Un altro ascoltatore che però non si firma, ecco, firmatevi mi raccomando, perché sono sms, quindi sono è come appunto se voi state intervenendo in diretta su Radio 24. Un altro ascoltatore dice che non esistono controlli di nessun tipo da quelle parti e che non è un paradiso perché gli abitanti sono tutti disperati. 349 238 6666, i vostri sms. Vincenzo Conticello è un noto imprenditore e un titolare dell'antica focacceria San Francesco di Palermo. Nel mare di Los Roques ci è finito nel lontano 1991 insieme alla moglie e alla bimba di 3 anni e mezzo. Si sono salvati tutti per miracolo, ha raccolto la sua testimonianza oggi Katia Caramelli. Eravamo io, la mia ex moglie, mia figlia e un altro passeggero, un amico, un farmacista di Caracas. La giornata era ottima, negli ultimi, io direi, 10 minuti di volo abbiamo notato che il pilota nell'approssimarsi a Caracas, invece di cominciare a portare giù l'aeroplano, invece saliva di quota, e questa cosa un attimo ci ha sorpresi. Il motore si è spento. Alla domanda che succede, lui ha detto: pensavo che la benzina mi bastasse, invece mi è finita. Da quel momento là entro in panico, non riuscì neanche a dare il mayday, neanche a dire dove eravamo, niente, entro in panico totale. L'aereo si trovava stranamente, invece che a 5.000 piedi come in genere vengono fatti questi voli, a quasi 9.000 piedi, proprio perché lui, sapendo di essere in torto perché era con la benzina, era andato molto in alto per cercare di guadagnare tempo. Come avete fatto a salvarvi? All'inizio, il primo secondo, per me c'è stata la rassegnazione, quindi mi sono sentito a un passo dalla morte, eravamo convinti di morire tutti, tranne il farmacista caracheño, il quale ci ha immediatamente scossi dicendo: che pregate, cosa fate? Mettetevi subito il salvagente, metti il salvagente a tua figlia. Ho messo il salvagente a mia figlia, così l'ho messo anch'io, la mia ex moglie ha messo anche lei il suo salvagente, lui si è messo il suo salvagente, ha cercato in pochi secondi la borsa gialla di salvataggio che era dentro l'aereo, se l'è messa in mezzo alle gambe, e intanto i secondi passavano. E a quel punto siamo arrivati con un fragore incredibile a sbattere contro l'acqua del mare davanti a Caracas. L'aereo si è spaccato in 2 o 3 pezzi. Io sono rimasto ferito gravemente, per cui ero quasi privo di conoscenza. Lui ha preso la mia bambina, l'ha buttata fuori da questo finestrino, ha aperto il salvagente, lei è andata su, poi ha seguito la mia ex moglie, poi lui, hanno visto che io non ero su, e allora lui si è ributtato di nuovo, cioè è sceso di nuovo un po' sott'acqua, non so a che livello eravamo, mi ha staccato la cintura di sicurezza, mi ha buttato fuori dall'aereo anche lì, mi ha gonfiato il salvagente e a quel punto ha aperto la borsa che galleggiava, si è gonfiato questo piccolo, chiamiamolo gommone, un piccolo canottino, ha messo sopra sia appunto i miei familiari che lui, a me mi ha legato con una cordicella accanto, ha cosparso il mio corpo di una bustina di repellente contro gli squali perché lì era infestato. E in più il mare era mosso, molto mosso. La nostra fortuna fu che un aereo della KLM che decollava da Caracas ci avvistò, vedendo questa balsa gialla che galleggiava, e ha capito di che si trattava, perché chiaramente queste canottini di salvataggio sono facilmente riconoscibili. Ha fatto 3 giri attorno al canottino dando il segnale della posizione alla torre di controllo, e intanto un altro aereo della compagnia Aerotui che sopravveniva ha visto qualcosa succedeva, appunto questo aereo che faceva questo grande giro, e quando quell'aereo di KLM è andato via, l'altro aereo ha iniziato a girare, ha fatto almeno 10-15 giri attorno a noi segnalando una barca di portisti che intanto era lì a pescare, che c'era qualcosa. Questa barca è arrivata a circa 2 ore da quando abbiamo avuto l'impatto, e consideri che tutto l'aereo è affondato completamente, scomparendo nel nulla nel giro di 20 minuti. Questo è Vincenzo Conticello, veramente da paura. Sono stato a Los Roques, dice Stefano da Milano, che ha fatto il 349-238-6666. Misero in moto il motore tirando una delle due eliche con una corda al grido tranquillo, todo bien, Stefano da Milano. Un altro ascoltatore, Paolo da Milano, dice che era su quella tratta nel 2005 sull'aereo gemello di quello scomparso nel 2008 e sottoscrive in pieno aerei improbabili sulle isole Mafia delle gite giornaliere e con motoscafi, atmosfera molto pesante. Un altro ascoltatore ci chiede di intervenire in diretta, lo sentiremo nelle prossime ore. Un altro ascoltatore, anzi un'ascoltatrice, dice che non sono problemi miei, sono problemi di ricchi, io non mi posso permettere ferie da più di 10 anni. Achille dice di aver abitato in Venezuela, di essere stato a Los Roques. In Venezuela volano tutti e il livello di sicurezza è approssimativo anche qui, anche per i voli nazionali. Un altro ascoltatore dice che Caracas è la città più pericolosa del mondo, che si muore ogni giorno per rapine e borseggi e che gli aerei per le isole non sono controllati per niente. Giulia dice di esserci stata nel 97 due volte. Ho rivissuto la stessa sensazione di precarietà e paura. Appena vidi l'aereo ero terrorizzata, dice Giulia, e incredula nel pensare di prenderlo. Un altro ascoltatore, Fabio da Milano, dice di aver viaggiato da Caracas a Los Roques nel 2003. Eravamo 4 passeggeri con un solo pilota in camicia hawaiana, sigaro fumante, rum, aereo vecchissimo, sicurezza zero. Un altro, Marco, dice di aver volato su quella tratta con un DC-3 addirittura del 1940, con vibrazioni che svitavano i bulloni dei motori che saltellavano durante il volo. Una paura per tutto il volo, dice Marco. Bene, questo è il vostro racconto, è il nostro racconto. Ci sentiamo domani come sempre alle 13:30 con Il Fatto del Giorno a Italia in Controluce.